prima intervista in presenza dopo 2 anni che facevamo solo telefonici, quindi è una sensazione un po' strana. E come sentirete un po' dai suoni di sottofondo, siamo al bar, abbiamo scelto il bar per l'intervista. Ma perché no, insomma, si sta bene al bar. Esatto. E poi così ci conosciamo meglio faccia a faccia con i nostri ospiti di oggi, che ci racconteranno l'uscita dell'album, che è decisamente imminente, mancano pochissimi giorni, e noi volevamo condividerla con voi. In realtà premettiamo che abbiamo già fatto un mini spoiler senza volerlo qualche tempo fa, e sui nostri social vi abbiamo detto il nome del loro album, ma ci hanno detto che non è un problema. A questo punto direi che vi passiamo la parola. Abbiamo con noi Balto e ci parlano del loro album che sta per uscire appunto il 22 gennaio. Benvenuti intanto. Intanto il vostro album è rimasto nel cassetto quasi 2 anni. Come avete vissuto l'attesa? Vado io. Allora, intanto grazie mille a Radio Città Fujiko per l'ospitalità. Io sono Andrea dei Balto. Io sono Alberto. Sì, è vero, questo disco è rimasto nel cassetto per quasi 2 anni. Abbiamo terminato le registrazioni più o meno in questo periodo, febbraio del 2020. E poi vabbè, eravamo abbastanza soli e abbandonati, quindi c'è stato tutto un processo di cercare una realtà che potesse aiutarci, no? per la pubblicazione di questo disco. E abbiamo conosciuto Pioggia Rossa Dischi, etichetta indipendente di Genova, che insomma ci ha un po' instradato e aiutato per capire che cosa di noi dovesse emergere da questo disco. Ovviamente la pandemia ha giocato un brutto scherzo, insomma, alle nostre tempistiche, ma adesso ci siamo e finalmente uscirà questo disco. E siamo pronti, insomma, siamo per l'uscita. Direi che se vi va ci potete dire voi ufficialmente il nome del disco e anche il perché poi ha questo nome. Ok, allora, il nome del disco è forse giusto così. Ovviamente, diciamo, spoiler anche il fatto che prende il nome da una canzone che si intitola così, e magari il significato. Sì, allora, questo disco ha avuto, diciamo, le canzoni di questo disco sono state scritte pre-pandemia, ed anche il titolo del disco era stato scelto pre-pandemia. Forse giusto così parla di quella che per noi allora era l'incertezza quotidiana del nostro vivere a Bologna, del nostro futuro, di che cosa volessimo fare davvero nella vita. E ci siamo un po' aggrappati all'idea che il momento che stavamo vivendo era per noi una sorta di zattera in un mare abbastanza burrascoso, e questa zattera magari a volte può andare un po' di qua, può andare un po' di là, non si sa bene che direzione, che meta avrebbe avuto, e noi in quel momento potevamo solamente cercare di dare una linea guida generale. Abbiamo preso un po' questa metafora alla fine della scrittura di questo disco, una volta che avevamo capito le canzoni di che cosa parlassero davvero, perché quello che succede spesso è che scrivi una canzone e poi è lei che ti dice che cosa sta trasmettendo solamente dopo averla completata, averla scritta e averla condivisa con gli altri. E quindi allora abbiamo deciso questo nome, forse è giusto così, cioè comunque vadano le cose, noi abbiamo detto la nostra in qualche modo e ci siamo. Per il resto non possiamo essere completamente padroni di quello che sarà. Perfetto, tra l'altro i vostri brani, anche se siete giovani, perché siete piuttosto giovani sia come band che come età vostra. Che siamo noi che siamo vecchi. Siamo noi che siamo vecchi, ma questo non sottolineiamolo. La maggior parte dei testi sono scritti al passato, c'è un po' di nostalgia. Ecco, come mai questa nostalgia a 25-26 anni che avete? Non lo so, in effetti è un disco che guarda, no, al futuro con questa incertezza, però come dici tu i testi sono sempre molto rivolti al passato, un po' perché parlano di storie vissute veramente, un po' perché parlano di storie immaginate come se fossero state storie vere, e un po' perché c'è questa malinconia di fondo che per quel periodo insomma aveva dettato abbastanza il nostro modo di vivere. Ma la lavorazione del disco è iniziata prima della pandemia, no? Cos'è che è stata la miccia che vi ha fatto iniziare a scrivere le canzoni di quest'album? No, diciamo che non c'è stata una vera e propria miccia, non c'è stato un momento in cui abbiamo detto ok, iniziamo a scrivere le canzoni del nuovo album, ma subito finito il vecchio EP non ci siamo praticamente mai fermati e abbiamo continuato con la scrittura delle canzoni, che poi non sapevamo se avrebbero fatto parte di un album o di un altro EP, eccetera. Quindi noi sostanzialmente alcune di queste canzoni che sono in questo album in realtà sono, almeno le prime stesure, sono state scritte intorno al 2017-2018, quindi sono alcune anche molto, molto più vecchie. Quindi inizialmente non c'era l'idea di un album, poi dopo un po' di tempo, quando avevamo raccolto circa 4-5 brani, ci siamo un po' guardati in faccia e abbiamo detto: ma che cosa vogliamo fare? Ci facciamo un album, facciamo un EP? Anche perché inizialmente non ci davano, i pezzi che avevamo scritto non ci davano la sensazione di far parte di un album, di non essere tanto, facevano fatica a stare assieme. Sì, non avevamo troppo le idee chiare, esatto, all'inizio, diciamo. Sì, però la cosa bella è stata che dopo averne scritte parecchie, diciamo, prendere la decisione insieme di fare un primo album è stato forse una scelta di maturità nostra, non lo so. Esatto, sì, cioè, abbiamo fatto poi ovviamente un lavoro di rimescolare un po' le carte in tavola, andare a modificare quello che avevamo già fatto, scrivere pezzi nuovi, e poi alla fine è venuto ovviamente super naturale. Anche una scelta di impegno, no? Perché comunque quando dalla sala prove, dal gioco, si decide di fare un vero e proprio disco con forse qualcosa da dire, allora bisogna anche metterci la faccia e tirarsi sulle maniche in qualche modo. Anche per perché fare era il nostro, questo è il nostro primo album. Nonostante in realtà sogniamo da relativamente tanto tra EP e progetti passati, però in realtà un album non l'avevamo mai fatto, quindi per noi è stato un passo importante decidere: ok, queste canzoni faranno parte del nostro primo album. Tra l'altro noi sapevamo già che voi suonate da un po', perché era ottobre 2018 quando vi abbiamo visto dal vivo al Micasa. Ah, quindi siamo dei fan di lunga data. Infatti io mi ricordavo, noi li abbiamo già visti, sono andato a vedere anche la data ed era ottobre 2018, quindi era uscito l'EP. Sì, da un annetto. Esatto. Probabilmente qualche canzone che fa parte del disco che uscirà appunto il 21 in realtà l'avevamo già suonato. Esatto. Vabbè, poi un po' sono state scartate, un po' sono lì che depositano, vediamo. Quindi c'è già del materiale che non è stato utilizzato in questo album. Sì, sì, sì. Che è nell'angolino. Anche perché poi sono trascorsi quei 18-22 mesi di pandemia in cui qualcos'altro abbiamo fatto qualcosa. Però sono stati frustratissimi perché non potevamo suonare, quindi vabbè, ma questo è un altro discorso. Ne parliamo dopo. Direi che a questo punto però vi facciamo prendere fiato e bere un goccio di birra o di spritz e vi chiediamo che canzone possiamo far ascoltare alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori per conoscere meglio quest'album. Ok, direi che possiamo iniziare da Quella tua voglia di restare. Facendo un passo indietro, insomma, e guardando un po' i vostri inizi, all'origine del vostro gruppo, diciamo che voi siete più o meno inseriti in questo filone che non ha neanche più proprio dei contorni definiti dell'indie rock. Riguardo però le influenze musicali che avete avuto per iniziare, insomma, questo progetto, cos'è che vi ha influenzato di più, gli artisti che seguite tutti o anche qualcuno di voi? Diciamo sia per me, però in generale un po' per tutta la band, e direi sicuramente, dato che comunque è un po' più di 10 anni che non suoniamo insieme, ma che comunque iniziamo a suonare, io ho preso penso la batteria, ho iniziato a suonare poco più di 10 anni fa, e ovviamente 10 anni fa eravamo fine anni 2010, anni 2000, e quindi lì quello che ci ha influenzato ovviamente più di tutti era tutto il filone indie rock inglese, Arctic Monkeys, Strokes, eccetera, e sostanzialmente questa qui penso sia stata un po' la spina dorsale che ci ha portato fino a qualche anno fa. Dopodiché lì è entrato anche ovviamente tutta l'esplosione dell'indie italiano, e anche quello ovviamente ha fatto sicuramente la sua parte nell'influenzarci nella scrittura dei pezzi. Sì, dopo sono tantissimi artisti, dopo ognuno di noi ascolta anche cose molto diverse, dai Dua Lipa ai Biffy Clyro a Franz Ferdinand o Mika, Piccio ascolta un sacco di Mika, però cioè la cosa bella è che comunque l'indie rock inglese degli Arctic Monkeys e derivati ci ha formati quando eravamo ragazzini e dovevamo andare in sala prova a imparare a suonare, quindi quella cosa lì ci rimane dentro perché abbiamo preso la chitarra e la batteria in mano per quel motivo, per quell'energia lì. Poi adesso difficile catalogare, secondo me. Ma l'etichetta indie rock per voi, ammesso che vogliate darvi un'etichetta perché non è detto, va bene, o la vostra musica secondo voi può essere chiamata in un altro modo? Non lo so, cioè vedo sempre che molti artisti, molte band dicono che a loro non interessa essere catalogati, e non vorrei ripetermi, però secondo me un po' il senso è quello, cioè anche adesso stiamo sviluppando nuovi provini, nuove canzoni, e un gioco che facciamo è: prendi il provino finito, distruggilo, rifallo chitarra e voce e ripartiamo da capo. quindi senza seguire uno schema, anche perché ormai abbiamo ascoltato di tutto, no? Bisogna mettersi in gioco per nuove cose, nuovi generi, non so, però indie rock ci piace. Ok, quindi è approvato. Ok, più o meno. Tra pochissimo tempo, insomma tra pochissimi giorni, ci sarà anche una data live, incrociamo le dita ovviamente riguardo appunto la fattibilità di questa data. Come vi sentite riguardo al fatto di poter suonare nuovamente davanti a un pubblico e come vi sentite a suonare i pezzi anche delle vostre canzoni, cioè i nuovi pezzi, i pezzi del nuovo album? Vabbè, allora, in realtà poco fa, il 4 dicembre, abbiamo suonato al Covo, qua a Bolo, ed è stato mega bello perché era un sacco di tempo che non tornavamo soprattutto al chiuso, no, a suonare. Quest'estate abbiamo fatto qualche concerto, però suonare in un locale al chiuso con le persone è un'altra cosa. E quindi ci ha ridato un sacco di energia e motivazione e non vediamo l'ora che... Sì, 20 gennaio 2022 allo Slurp, al Cortile, tecnicamente dovremmo suonare, speriamo, incrociamo le dita. E... io non vedo l'ora. Sicuramente, esatto, soprattutto poi portare definitivamente questi pezzi che fanno parte dell'album nuovo, sarà per noi suonarli tutti una cosa sicuramente quasi liberatoria, dai. Esatto, sì, sicuramente. Quindi giovedì 20 gennaio al Cortile Caffè ci sarà finalmente, dopo due anni di che sta lì e spinge per uscire dal cassetto, che gli spalti di Forse è giusto così dei Balto. A questo punto vi chiediamo, per chiudere, un messaggio per convincere così o invitare gli ascoltatori di Radio Città Fujiko a venire a sentirvi dal vivo, sempre incrociando tutte le dita che abbiamo. Direi che forse non avrete niente di meglio da fare, ma forse sì, però scegliete la cosa giusta, quindi venite al nostro concerto perché sarà super bello e sarà, non so, io sto un po' sognando, no? Cioè mi immagino tutte le date che abbiamo fatto, tutte quelle che potremmo fare, quindi sono speranzoso del fatto che sia una bella serata da condividere insieme. A questo punto vi chiediamo anche una canzone per salutarci e chiudere l'intervista. E l'ultima canzone direi che è una canzone che noi abbiamo scritto quasi dedicata a Bologna, direi McBaren. Ok, perfetto, grazie mille. Ciao, grazie mille. Ciao, grazie a voi.